Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti al settimo numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Quando ormai circa una decina d'anni fa debuttarono le web radio, in molti gridammo ad una nuova rivoluzione, proprio come quella delle radio libere degli anni 70. La rivoluzione c'è stata, ma negli ultimi mesi fosche nubi si affacciano all'orizzonte. Mentre la modulazione di frequenza, presidiata dai soliti noti, rimane la principale piattaforma per la fruizione in mobilità, il podcasting è ormai dominato dai programmi mainstream. Nel frattempo gli standard digitali arrancano e sia la politica che i cosiddetti padroni del vapore sembrano voler mettere i bastoni tra le ruote della radio del futuro. Sullo sfondo, splendida e beffarda, la vecchia radio risorge ogni volta dalle proprie spoglie, reinventando ogni giorno nuovi ruoli e nuovi linguaggi. E allora, mentre scorrono le note di Lee Marlene, abbiamo un po' scherzato perché l'introduzione era tutta sulla radio del futuro, in realtà abbiamo fatto parecchi passi indietro. Oggi parliamo in realtà cercando di guardare in avanti su quella che potrebbe essere la radio del domani, e lo facciamo con Marta Perrotta, che è qui in studio. Ciao Marta. Ciao, buongiorno. Marta, che è una ricercatrice che da sempre studia tutte queste cose, quindi probabilmente ci saprà dire a che punto stiamo e dove stiamo andando. Non solo ricercatrice, perché collabori anche con Radio 2, corretto? Sì, esattamente. E fai svariate altre cose. Sì, diciamo, mi occupo dei media in generale, di radio e televisione in particolare, con sia diciamo in ambito accademico che come produzioni e scrittura in generale. Ok. Al telefono invece dovremmo avere Andrea Lauendel. Ci sei, Andrea? Sono, buongiorno a tutti. Allora, Andrea, oltre a scrivere soprattutto di queste cose, ma non solo, per il Corriere della Sera e per svariate altre testate, ha un blog di cui io mi innamorai ormai parecchi anni fa, all'indirizzo radiolauendel.blogspot.com, correggimi se sbaglio, Andrea. Sì, anche radiopassioni.it. Ah, ecco, più facile, perché sì. Già scrivere Lauendel non è uno scherzo, e comunque troverete i link sul sito di Conversational. Bene, io dico solo che da quando esiste questo blog non compro più libri sulla radio, perché parla, intanto fa dei balzi all'indietro improvvisi e ti svela nuovi particolari sulla vita di Marconi e compagnia, poi naturalmente fa delle fotografie dell'esistente e ogni tanto viene lanciato qualche sguardo sul futuro, corretto Andrea? Qualche sonda, sì, o anche qualche siluro, se vogliamo. Beh, siamo in epoca di grandi siluri, indubbiamente. Certo. Comunque, vabbè, questa introduzione apparentemente vintage serviva per ricordare che la radio in qualche modo fin dagli inizi è nata nuova, è nata interattiva grazie al telefono, che però poi si scontrava col problema della modalità di fruizione lineare, quindi era una interattività non asincrona, era necessariamente sincrona. Però in qualche modo alcuni dei fenomeni del mondo fantasmagorico che stiamo vivendo la radio in qualche modo li aveva anticipati. Marta? Sicuramente dagli anni 70, quando è stato possibile intervenire al telefono in una trasmissione radiofonica, si è aperto un mondo, si è aperta la possibilità di questa bidirezionalità apparente in certi casi, perché poi comunque il microfono è sempre quello che sta nello studio radiofonico, quello che può sfumare, può tagliare, può far tacere l'eventuale ascoltatore, perché poi di questo si sta parlando, diciamo della possibilità per un ascoltatore di intervenire in diretta. Però di fatto questa è stata la prima vera rivoluzione, se vogliamo, all'interno, no, sia delle estetiche che dei linguaggi della radio. Poi chiaramente tutto questo si va a riversare sulla dimensione sociale, no, di questo mezzo che si è reinventato anno dopo anno, rivoluzione dopo rivoluzione. E non solo, perché poi in realtà la spia di tutti i problemi che la comunicazione a due vie sta creando adesso, diciamo, ai padroni del vapore, ora che i buoi sono scappati grazie al web, in qualche modo la radio l'aveva già accesa, perché questi problemi, Andrea, che tu che sei un'enciclopedia, che hai ricordi molto antichi di queste prime forme di interazione tra radio e ascoltatori, questi problemi del controllo di quello che gli ascoltatori dicevano si sono posti fin dagli anni 50, 60? Beh, sì, forse anche prima, perché se consideri che il telefono è più che coevo della radio, anzi per molti versi la radio è stata preceduta da un'invenzione, quella del telefono, che mirava inizialmente a offrire servizi assolutamente di tipo diffusivo. Sì, sì. Se consideri che l'antenato dell'Italia, c'è un bellissimo libro pubblicato di recente, era l'araldo sì. della filodiffusione, l'araldo telefonico. L'araldo telefonico. Questo è un binomio che è sempre stato vero, anche sicuramente prima degli anni 50. Poi tieni conto del fatto che fino all'invenzione della registrazione, che bene o male è una cosa che ha cambiato molte carte in tavola, che è tra l'altro un'invenzione di origine strettamente radiofonica, perché la registrazione è stata inventata nella Germania nazista e serviva a diffondere contemporaneamente da tutte le stazioni del Reich i discorsi di Hitler. Quindi certo. Come vedi, quando si parla di radio come mezzo ibrido, soprattutto dobbiamo pensare che appunto prima della registrazione la radio era il mezzo della diretta. Tutto quello che tu catturavi col microfono, soprattutto in esterno, ci sono delle leggendarie radiocronache politiche di eventi, ce n'è una veramente leggendaria che è quella dell'esplosione dell'Hindenburg, sì, famoso, sì, dirigibile, sì, sì. E tutto quello che potevi cogliere lo coglievi senza filtro. Certo. Era un problema enorme, soprattutto nei regimi europei, nei regimi dittatoriali, e voglio dire, insomma, era molto difficile da gestire, perché proprio non c'era possibilità di interrompevi le trasmissioni, mm-hmm, oppure... Vabbè, va anche detto però che una volta accaduto il patatrac, l'incursione andava persa per sempre, perché la registrazione era comunque un dominio esclusivo del broadcaster, cioè non ci poteva essere, come ora esiste il DXer che si piazza lì e registra tutto quello che... Assolutamente, okay. Questo è vero, certo. Senti, dunque, vabbè, adesso può sembrare un salto quantico, però in questa trasmissione abbiamo la pretesa di cercare di capire quello che sta succedendo ai vecchi business con l'arrivo del web. Rispetto a 5 anni fa, insomma, al grande entusiasmo quando apparvero le prime web radio, quando apparve il podcasting, eccetera, c'è un clima di disillusione. Forse in qualche modo si sono assestati alcuni equilibri. Tu adesso, se mi dovessi dire le web radio che cosa significano in questo momento, parliamo anche semplicemente del panorama italiano. Ah, sai, c'è un aspetto sicuramente importante, che è quello della formazione. nella maggior parte dei casi troviamo un modello imitativo delle radio commerciali a contenuto tipicamente musicale, forse con un po' di inventiva in più, con un po' di varietà in più, però diciamo che molte web radio più strutturate tendono a scimmiottare, come dire, i network nazionali e regionali, e gli stessi network poi occupano i canali, gli infiniti canali, l'infinito spettro di internet con una loro offerta web che non si discosta in modo nettissimo dall'offerta via etere. In questo devo dire che forse il canale internet rappresenta un'occasione sfruttata solo in parte. Sì, io riallacciandomi a questo discorso farei un parallelismo fra quello che è accaduto negli anni 70 e 80, dall'iniziale esplosione, no, della radiofonia libera, che si è manifestata in migliaia di emittenti in Italia, che però nell'arco di 4, 5, 10 anni si sono poi via via sottigliate nel numero, sia per motivi di legge sia proprio per una mancanza di inventiva rispetto ai modelli, no, ai formati. Ecco, perché tra l'altro magari a quei tempi si poteva dire che l'etere radiofonico, che era comunque la palestra di esercizio delle prime radio libere, no, la modulazione di frequenza, era una risorsa scarsa, quindi col tempo il business delle radio commerciali ha sottratto, no, le frequenze, e quindi questa è stata una concausa, se permetti, dell'affievolimento del gran parte del fenomeno delle radio libere comunitarie, eccetera. Sul web però in realtà va in primo piano il fenomeno che dici del calo dell'attenzione, perché in realtà sul web la risorsa scarsa è l'attenzione. Se si frammenta all'infinito l'offerta in questo modo, è chiaro che poi di nuovo il mainstream riprende il controllo. Guardiamo semplicemente il podcasting. Ricordate le prime classifiche di iTunes, dove i primi 20-25 posti della classifica erano podcast indipendenti. Poi si sono affacciate le radio pubbliche, che avevano meno problemi a erogare servizi in podcast, e hanno cominciato a scalzare le posizioni dei podcast storici. E adesso, con le radio commerciali che hanno rotto gli indugi, abbiamo lo Zoo di 105, abbiamo 610, abbiamo tutte queste belle cose qua, Andrea. Sì, naturalmente, sai, il web è un mezzo che, come dire, tra i due fuochi, nella tenaglia del fascino, della grande apertura, della grande opportunità per tutti, e quella che è di fatto il principale difetto dell'ascoltatore, del telespettatore, che è la pigrizia. È vero che la morte del palinsesto, dell'ascolto lineare, ha reso, come dire, i vecchi padroni dei palinsesti, gli editori radiofonici, gli editori radiotelevisivi, un po' meno padroni, ha dato un pochino più di controllo a coloro tra gli ascoltatori che sono più attivi e più disposti a lavorare, a metterci un po' del proprio per costruirsi dei palinsesti autonomi, asincrono, in indifferita. Va bene, allora, visto che siamo già in un clima malinconico, sentiamo un grido di dolore che arriva proprio da una web radio. La GCOM, l'autorità garante delle comunicazioni, che sappiamo al suo interno avere rappresentanti anche aziendali, insomma, che hanno avuto attività in passato in aziende private proprio nella comunicazione, quindi evidentemente non possono essere dei garanti fino in fondo, ha tirato fuori una dichiarazione di inizio attività, cioè ha sancito con questo nuovo accordo un obbligo per le web libere, le web radio e le web TV, quindi entrambe, televisioni e radio, che trasmettono solamente sul web, un costo di autorizzazione fino a 1.500 euro per le TV che appunto hanno anche, e le web radio che hanno anche un palinsesto. L'effetto di un provvedimento che serve per regolamentare il decreto attuativo Romani sui servizi media audiovisivi. Staremo a vedere che cosa succederà. Quello che mi viene da dire è che oltre a non capire che siamo in un paese occidentale, che non ci possiamo permettere anche di fronte agli occhi del mondo occidentale, democratico, visto che è una parola che si sbandiera sempre, ci possiamo permettere il lusso di restringere le libertà individuali, il diritto di espressione sancito dalla Costituzione, come ho detto prima? Io dico di no. E soprattutto quello che mi viene da dire è che queste persone, questi signori, non sanno neanche di cosa stanno parlando, perché evidentemente moltissime web radio, quelle che avranno la forza, e anche le web TV, e il coraggio di andare avanti, trasferiranno il proprio hardware, i server sui quali si appoggiano per ogni giorno trasmettere ore e ore di contenuti più o meno belli. Non sto a entrare nel dettaglio, noi potremmo essere la peggiore web radio del mondo, ma abbiamo diritto di esprimerci, e soprattutto abbiamo un diritto che è sancito oltre dalla Costituzione anche dal fatto che non abbiamo sponsor, non prendiamo sovvenzioni pubbliche, non abbiamo mai chiesto un centesimo, una lira ai nostri ascoltatori, che comunque, nonostante questo, continuano a seguirci. Evidentemente qualcosa di buono lo faremo, e se qualcuno ha voglia di ascoltarci, è giusto che noi possiamo esserci. Quindi chiediamo e chiederemo a tutte le web radio e le web TV di unirsi in una grande catena che non farà, io almeno questa è la mia opinione, il silenzio, non faremo lo sciopero, perché già stanno cercando di zittirci, quindi aumentare al silenzio, questo silenzio assordante, credo che non sia giusto. Proprio oggi il FAI ha deciso di stoppare musei, sale da concerti. Allora, la voce che abbiamo sentito poco fa è quella di Matteo Ponzano, che è, diciamo così, il gestore di una di queste web radio, una delle più interessanti. Si chiama resetradio.net, manda in onda solo musica Creative Commons, insomma somiglia molto a quel mondo diverso a cui tanti vorrebbero ambire, ma che è un mondo nei confronti del quale diciamo che i decisori stanno un po' mettendo i bastoni tra le ruote. Che sta succedendo, Andrea? Beh, sta succedendo che in pratica l'Unione Europea ha definito una serie di linee guida per regolamentare il mondo dei mezzi che vengono distribuiti, dei contenuti che vengono distribuiti su internet, ovviamente dei contenuti audiovisivi, in maniera sia lineare, quindi su un modello di tipo diffusivo, broadcast, sia non lineare, e ha definito questa direttiva dei mezzi audiovisuali che le nazioni che compongono l'Unione hanno man mano adottato, armonizzato nelle proprie leggi e regolamenti nazionali. L'Italia l'ha fatto con un po' di ritardo rispetto ad altre, anche se per la verità molte delle nazioni europee, molti si sono mossi con grave ritardo, ed è venuto fuori questo decreto Romani che, insomma, diciamo che si muove nei binari fissati dall'Unione, però lo fa un po', ovviamente un po' all'italiana, e soprattutto con un'impronta marcatamente televisiva, tradizionalista e potrei dire centralista. L'origine dell'allora vice ministro Paolo Romani, che è poi colui che ha dato il nome al decreto, certo. Appunto il decreto che recepisce, come si dice, la direttiva europea, e le sue origini sono nella televisione commerciale, una persona, diciamo, molto vicina a Mediaset, e diciamo che quello che è stato mutuato dall'Europa è, come dire, è stato rivestito di un atteggiamento, di un abito, insomma, molto da guardiano, ecco. Diciamo. Però io adesso a Marta vorrei chiedere, intanto questo provvedimento colpisce soprattutto le radio veramente grassroots, no? Quei one man radio show, diciamo, perché poi in realtà con una dichiarazione, cioè chi fa un investimento in una web radio non è poi particolarmente colpito, perché fa questa dichiarazione, paga questa tassa da 750 euro, cioè, però è un deterrente da un lato. Ma la domanda che ti voglio fare è, ma se uno mette in piedi tutta la radio su una piattaforma che sta, diciamo, su server remoti, non può aggirare l'ostacolo in qualche sì, modo? Sì, senz'altro, infatti. Cioè, che... non è applicabile alla fine questo non decreto. È applicabile, è un po' la situazione in cui si cerca di, in qualche modo, regolamentare un sistema, ma di fatto si invita... perché poi nei fatti questo accade, a trovare delle soluzioni alternative, un po' come fu diciamo per i vari tentativi di regolamentare il privato, l'emittenza sì. privata durante gli anni 70. Sì, che no? C'era sempre, no? Vi ricordate il trucco delle videocassette che venivano fatte circolare, no? Poi ci sono state le syndication. La mano che fa da una parte regola, dall'altra invita in qualche modo ad aggirare le regole stesse. Poi di fatto si va a colpire così sulla carta un settore che vive di questa microeconomia, che non ha dei margini di profitto, ha assolutamente, diciamo, una difficoltà a rendere remunerativa, diciamo, l'attività, e soprattutto, appunto, come sottolineava nell'intervento Matteo Ponzano, è assolutamente priva di finanziamenti e soprattutto di raccolta pubblicitaria. Quindi ecco, tra l'altro io vorrei riallacciarmi a quello che diceva Andrea poco fa circa questa tendenza, diciamo, nella fase acerba del mondo del web radio, a copiare un po' i modelli della radio tradizionale, quando poi in realtà le opportunità sono le più varie. Però, parallelamente, in ambito, tra virgolette, corporate, o quantomeno in ambito istituzionale, si assiste a fenomeni nuovi e molto interessanti. Non si parla solo di nuovi linguaggi. Io capisco che ho accanto Marta, che è una che studia i linguaggi e quindi si esalta quando fa. Però io invece mi metto la giacca e la cravatta e penso alla radio dell'Auditorium di Roma, che non ha fatto una web radio con l'idea che qualcuno se la senta in ufficio, ma semplicemente ha creato un corporate generated content su contenuti che in qualche modo presidia, no? Come gli artisti, e manda in onda di fatto i concerti, gli eventi, insomma, una cosa che in Italia semplicemente prima non era possibile. Andrea, forse la parola radio è un po' ingombrante per questo genere di cose? Ma sai, dal mio punto di vista no, voglio dire, secondo me stiamo ancora parlando di radio, stiamo parlando di una radio fatta molto bene, molto molto creativa, che va a riempire delle nicchie, se vuoi, perché probabilmente i concerti dell'Auditorium non verrebbero ascoltati da chissà quante persone, anche se poi alla fine, sai, qui in Italia ci sono delle mostre molto molto particolari, molto specifiche, che hanno delle code chilometriche, e poi salta fuori che la buona musica, il buon teatro, i buoni contenuti sono molto più apprezzati di quanto non vogliono farci credere le paillette e le ballerine un po' sguaiate dei canali generalisti. Quindi hai sicuramente ragione, questa è una opportunità straordinaria di mettere in circolazione, di rendere veramente fruibili su numeri consistenti contenuti che sembravano completamente tagliati fuori. C'è uno scoglio molto importante, che non è soltanto quello della normativa europea sui nuovi media, ma è soprattutto la questione dei diritti d'autore. Su questo scoglio noi dovremo prima o poi approdare e trovare il modo di aggirarlo in futuro, di risolverlo, di adattarlo, questo sicuramente. Va bene, allora noi ringraziamo Andrea per la cortesia con cui è intervenuto. Il suo blog rimarrà per tutti noi fonte di ispirazione e di documentazione. Tra l'altro vi partecipano vari personaggi estremamente spettacolari per la passione che mostrano nel piazzarsi in cima alle colline nelle serate più incredibili d'estate per sentire segnali di radio all'altra parte del pianeta. Grazie ancora Andrea, noi andiamo in onda un altro inserto. Grazie a voi, buona giornata. Grandissimo Bill Evans, che finisce così con questi suoni meravigliosi. Chiaramente sì, è proprio ci vuole sempre l'applauso per questa musichetta. Ci siamo lasciati eventualmente un po' carini, un po' calmi, ci siamo rasserenati come non mai, come non mai. Ebbene, ora ultimissimo pezzo, ringraziamenti vanno a tutte le persone che sono state ed hanno avuto la pazienza di stare in onda con noi, in linea con noi, quindi sotto anche Nicola, Vincenzo, poi Niki, Paola, stesso Tyler, Max, Monique, poi Francesca, Andrea e Barbara e Umberto e Sara e quanti altri, Serena, Francesca, Leonora e tutte insomma le personcine che hanno avuto la pazienza di stare così in questo momento al microfono, al computer, da casa propria. Questa è una web radio libera, radionation.it il portale, e questo è il canale 3, Casa Stevigno, ogni mercoledì sera dalle 9.30 in poi circa, un paio d'ore per farci compagnia. Ultimissimo pezzo, fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se vi siete trovati bene, così chiaramente insomma poi cerchiamo di migliorare un attimino il tiro. Ripartita la stagione autunnale, podcast su beautifullife.org, il mio blog personale, quindi da circa domani mattina, per chi volesse risentire la musica pubblicherò chiaramente anche la scaletta. Allora Marta, questo inserto che abbiamo sentito ha un grosso pregio, e l'autore ha già detto il nome del suo blog, quindi non dovremmo ripeterlo. Ciao Stefano, come stai? Buonasera, grazie Antonio, bene, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, ciao Antonio, ciao Marta. Allora, questa era la voce di Stefano Leotta, che è uno di questi bizzarri personaggi che con passione ma anche talento conducono una di queste centinaia, migliaia di trasmissioni che vanno in onda sul web. Abbiamo parlato poco fa del problema dei bastoni fra le ruote legali che in qualche modo si stanno mettendo sul mondo delle web radio, però va detto, ecco, che la tua trasmissione, che si chiama Casa Stevigno, che abbiamo sentito poco fa, rientra in un progetto più ampio che si chiama Radio Nation, che è diciamo frutto della mente geniale di Gianluca Neri, insomma uno dei personaggi storici del web italiano, creatore di Clarence, eccetera, che adesso ha creato questi tre canali che sono il vero e proprio punto di riferimento per la blogosfera alla radio, corretto Stefano? Assolutamente, un plauso poi chiaramente a Gianluca, nel senso che sì, RadioNation.it è un network di tre canali, quindi RadioNation 1, 2 e 3, che hanno un proprio palinsesto, che hanno addirittura una direttrice del palinsesto che cito e che saluto, Francesca Fiorini, anch'essa nota blogger italica, e che hanno una propria vivacità, un proprio DNA. Ogni programma è fatto a modo suo ed è identificato dalla persona che lo conduce, che ne regola poi appunto il carattere e la personalità stessa del programma. Ecco, io volevo chiederti una cosa, quindi in sostanza il fatto che adesso ci sia questa necessità di una dichiarazione di inizio attività, questa tassa che viene pagata, cade ovviamente sulla testa di chi ha la propria web radio, ma chi come te ha una trasmissione in un progetto più ampio, che ovviamente non potrà che scendere a questo compromesso non particolarmente pesante, beh, diciamo che per voi non è un problema, giusto? Tecnicamente sì, ci avevo già pensato all'uscita poi della normativa, quindi alle ultime voci che circolavano in rete sui giornali. Tecnicamente per noi finali che siamo davanti al microfono oppure davanti al nostro PC non è un problema. Però chiaramente mi permetto di dirti e confessarti che un pochino di angoscia me l'ha data questa notizia, sono sincero. Sì, anche perché insomma non è difficile capire qual è il brodo culturale in cui nasce questa cosa. Diciamo che un po' si nasconde in cose forse anche più gravi che ci passano davanti agli occhi tutti i giorni in questo periodo. Io ho sentito un po' del tuo podcast che è ripreso adesso, diciamo, di questa trasmissione che è ripresa adesso a settembre, se non sbaglio. E ho notato questa tua tendenza a interagire con la chat, cioè in sostanza non interviene la gente più tanto su Skype, però tu rispondi in tempo reale a quello che le persone ti dicono dove? Su Skype o dove? Sì, me lo dicono fondamentalmente su più fronti, abbiamo la classica messaggistica su Gtalk per esempio, abbiamo anche Skype, ma abbiamo per esempio anche Twitter con dei replies che vengono poi fatti nei confronti del mio account twitter.com/stefigno nel caso specifico, ma sui social network, quindi sugli aggregatori. Nel dettaglio, in questo caso, dalla trasmissione che abbiamo sentito, era FriendFeed, dove il mezzo permette un'interazione quasi in tempo reale nei confronti delle persone che sono a casa, che sono dinanzi le loro postazioni. Quindi è per me fondamentale, almeno per come la intendo io, la web radio, per come l'ho sempre fatta in casa Silvigno, in maniera molto spontanea, molto, molto, molto gioviale, rispondere quasi in tempo reale alle loro singole richieste, esigenze, battute, affermazioni, eccetera, eccetera. Allora Marta, qui abbiamo sentito Stefano parlarci di una frontiera molto avanzata dell'interazione della web radio. Tu hai seguito tutti gli sviluppi. All'inizio c'era semplicemente una email, poi è cominciata a esserci la chat, adesso c'è proprio la nuvola di Frankfurt, cioè questo chiacchiericcio, questo sciame che poi la cosa affascinante è che non interagisce solo con il conduttore, interagisce con se stessa, sì, cioè si complicano le cose. Si complicano tantissimo e diventano probabilmente sempre più interessanti per chi studia questi fenomeni come me, ma anche per chi ci partecipa, secondo me. Da ascoltatore della radio tradizionale web mi ritrovo a interagire su Twitter, su Facebook, con altri ascoltatori attraverso la radio, attraverso la piattaforma della radio, attraverso i suoi contenuti, attraverso i suoi stimoli, perché se il mio conduttore preferito lancia su Facebook la scaletta della puntata, io posso commentarla, posso essere in qualche modo una cassa di risonanza con tutta la mia comunità di riferimento, anche se questa non sta ascoltando la radio in quel momento, e tutto questo diventa, diciamo, in qualche modo in qualche modo ingrandisce la possibilità di far circolare i contenuti della radio attraverso più piattaforme. C'è un numero crescente di persone che ascolta le web radio, soprattutto in ufficio, perché in ufficio c'è lo strumento per sentirla, no? C'è il computer e sta sostituendo molto quella che una volta era la radiolina in ufficio, no? Che sì, prima era tollerata, adesso praticamente vedi proprio la gente con le cuffiette, no? Davanti allo schermo, e questo sta creando dei numeri che prima non esistevano sulla web TV. Il problema è che questi numeri esistono nella realtà, ma per il mondo che poi ripartisce i ricavi, non tanto. Sentiamo questo inserto che ci spiega un po' meglio la questione. La web radio però è l'unica che ha una certificazione. I nostri dati di ascolti sono noti e sono rilevabili. Assolutamente rilevabili in qualsiasi momento. Sì, però non entrano nel circuito diciamo pubblicitario, pure se sono rilevati. Non sono non ancora. Ci arriveranno. Facciamo una piccola pausa e ritorniamo subito. Allora, come si sarà capito, questo era il brano di una antica trasmissione radiofonica su una web radio che condussi ormai 2 anni fa. Io avevo una trasmissione che si chiamava Proxy Bar, abbastanza simile a questa. Avevamo in studio un commissario della GCOM importante come Enzo Savarese, e poi c'era il direttore della radio che assolutamente volle intervenire perché si parlava delle cose sue. Attilio Torrone gli fece questa domanda: ma perché noi, che potremmo certificare al millimetro chi ci ascolta, le caratteristiche eccetera, quindi monetizzare molto meglio, no? L'advertising, perché è context based, poi si può dire anche location based in prospettiva. Però alla fine poi l'Audi Radio ci ignora. Marta, come mai l'Audi Radio ignora questi signori qua? L'Audi Radio ignora tantissimi aspetti, diciamo, dell'ascolto radiofonico extra etere, diciamo. E lo diciamo in maniera abbastanza esplicita, anche perché non solo in questo momento Audi Radio è in una fase di totale confusione e rinnovamento delle metodologie di rilevazione. L'anno scorso è stato il primo anno, diciamo, di test, ad oggi diciamo fallimentare, ma l'anno scorso si puntava molto su questa nuova possibilità di integrare dati quantitativi solitamente rilevati attraverso il sistema CATI, attraverso le interviste telefoniche, con un panel di ascoltatori che compilavano dei diari di ascolto, cioè una metodologia in uso in diversi paesi del mondo, in particolar modo in Gran Bretagna, e che consente appunto di descrivere letteralmente poi le modalità di ascolto e soprattutto i contenuti dell'ascolto radiofonico. Questo è un meccanismo che ha paralizzato Audi Radio, dando dei risultati l'anno scorso, diffusi quest'anno, assolutamente incongruenti rispetto a quello che era erano le rilevazioni precedenti, e questo tra gli altri è uno dei grossi problemi di Audiradio. Audiradio non tiene conto, tiene a malapena conto degli ascoltatori che ascoltano la radio in auto, certo, attraverso appunto l'ascolto mobile, ma non tiene conto dei cellulari, non tiene conto della radio via internet. Ma tutto... quanta incompetenza e quanto dolo c'è in tutto questo? Diciamo un 50% e un 50% e... Va bene, diciamo che bene o male le tabelline le conosciamo, quindi non è difficile capire il valore residuale. Stefigno, io ti chiamo così perché in arte viene chiamato Stefigno, a Radio Nation come funziona la pubblicità? Voi di che campate? Allora, io nel dettaglio sarò molto franco e sincero con te, non me ne occupo e non lo so. Non so come campiamo, ma presumo... che ci nutra la passione, voglio essere un po' così in maniera quasi romantica, un po' innocente, sì, romantica. Presumo ci nutra la passione, non so nei dettagli, nei piani alti come funziona. So che noi abbiamo la possibilità, per fortuna, di avere un nostro spazio. Ognuno di noi ha degli slot già prefissati, quindi ha un palinsesto che appunto la direttrice dei palinsesti si preoccupa di fare e di costruire per tutti quanti. Nel dettaglio non so come però può avvenire la remunerazione economica nei confronti della donation. Quello che so è che abbiamo però la possibilità di avere una grande apertura, una grande libertà in tutti i sensi, e questo ti permette di poter programmare e fare radio con serenità nei confronti delle persone che ti ascoltano, qualsiasi tipologia di programma, questo è. Beh sì, tra l'altro poi quella cosa che hai detto della passione, che magari può essere vagamente derisa, no? Se ascoltata, diciamo, in un mondo poco esperto, però la verità è che io non dimenticherò mai un intervento bellissimo che fece Marco Traferri, uno storico podcaster, a una Riva Radio Incontri di tanto tempo fa, quando si parlava di monetizzazione. Lui disse: ma perché dobbiamo sempre pensare al fatto che chi fa la web radio deve preoccuparsi di fare business? Piuttosto andiamo a chiedere al milione di persone che si piazzano davanti al ponte da Verrazzano tutti gli anni per fare la maratona di New York, nessuno li paga, eppure esatto, funziona, e nessuno gli va a dire: ma perché non fai business con questa cosa, no? E insomma, quindi vogliamo lasciarci con questa nota romantica, ottimistica. Io ringrazio tanto Stefano Leotta per il suo intervento, Andrea Lauender che è intervenuto prima, e Marta Perrotta che ci ha raggiunto qui in studio. E ricordo a tutti gli ascoltatori che tutte le puntate di Conversational possono essere riascoltate in podcasting sia sul sito della radio, radiopopolareroma.it, sia sul blog conversational.it, dove la conversazione può serenamente o meno, perché sono ammessi anche i flame, proseguire nei commenti dei post delle varie puntate. Per il resto io do a tutti gli ascoltatori appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.